E tra mille peripezie iniziamo una nuova puntata di Wolf Trips. Viaggi del lupo. Li facciamo. Fermili un po' meglio. No, non si sente. Caspita, vabbè, allora vi lascio adesso parlare sì, a adesso voi. Adesso sì, adesso sì. Io ti sento. Abbiamo un po' di problemi col microfono oggi, porca miseria. Va bene, allora. Abbiamo... Quindi è iniziato col buonasera a tutti. Puntata. Venuti in farmacia. E oggi iniziamo la seconda puntata di Wolf Trips. Io e già la seconda. È già la seconda, forse ci siamo. Beh, presentiamoci, dai. Noi siamo. Io sono Domenico Biancardi alla regia di questo fantasmagorico programma. Al tuo fianco? Al mio fianco Daniele c'è Daniele Civelli, la sua spalla sinistra. Alla faccia che spalla. Alla faccia, sì, infatti. La colonna. Che tra poi inizierà anche il suo programma. Sì, dai. Sì, a breve, a breve. Ma c'è qualche news quando inizi ancora? Non lo so, facciamo decantare bene. Va bene, va bene. E poi abbiamo dall'altra parte invece Cristina. Ciao. E poi abbiamo Tony. Ciao. Ciao. Poi abbiamo, in studio abbiamo un po' di gente stasera. Abbiamo grandi ritorni. Un ritorno di fiamma. Non è che il microfono ha qualche problema per quello. Abbiamo Fabio. Non ci voleva. Che poi dopo, vabbè, ci dirà un po' delle sue peripezie e avventure marine, bravo, bravo. Poi abbiamo Deborah. E questa sera abbiamo Sara, ma non Katia, quindi si sono dati un po' il cambio. Non ci siamo accorti che sono gemelle, giusto per chi non lo sa. Oddio, non è che siamo proprio uguali, no, vabbè, uguali, vabbè. Sono gemelle, comunque Katia ci ascolta, ci segue. Lei chi è? Come lei chi è? Io non le distingo. Lei Sara, dai, non è vero, non è vero. Va bene, dai, stasera iniziamo con un po' di musica, sempre dalle solite, diciamo, giri di etichetta. Stasera partiamo direttamente con un po' di... partiamo dall'etichetta Block Sonic, quindi si parte con un po' di musica hip-hop, anche old school. Oh. E avremo anche, poi dopo lo svelo, ma l'abbiamo pompato parecchio nei social, un'intervista con un'etichetta molto particolare. Va bene. Sì, dopo ne parliamo e vediamo un se po'. Si riesce. Sì, infatti. E sì che si riesce, dai. Dai, dai. E andiamo a ascoltare il primo brano, che è di Kin Luck con Cut Deep, giusto? No, potrebbe essere, vedo. Sì, sì. Come sì. Non ci vedo? È lì, dai. Si vede bello. L'importante è leggere. We get some more value in the phones, baby. Oh. You know what's up, back on the cut with cut side. Here to separate what doesn't suit us, cut ties. Cause I'm sick of these rappers and how they dressing up to impress us. But an A&R wouldn't press your cut. I know the ropes a bit, the float is bit, you notice it. They overdid it, I'm over it, leave them with an open lid. A dome was split with microphones, a grip, the roles are flipped. Oh, we sick, and they thought that Joey rips. We've been tearing tracks, really not up to the match. Clearing smoky mirrors, aware of the disappearing act. Aware of that, wear them out anywhere we at. Armor up, I'm coming in unsuited, and I'll wear it back. A nuisance, I'ma wear it if the shoe fits. Smooth scripts that kick the hit like a bruised fist. Hard hitting, nowadays they miss an impact. You got a bone to pick, I'm ready, no to leave a rip crack. Dig that, we back. Live from the underground, sitting in the middle, middle finger to that other sound. They not raw enough for getting on my nerves. Getting on the skin, time to hit them where it hurts. Yeah. Oh no, they kinda slow with this and now John Doe. Anyone that wanna bomb, yo, pronto, I'm on some whole other shit. Oh no, they kinda slow with this and now John Doe. Anyone that wanna bomb, yo, fun flow, pronto, I'm on some other shit. Hands on like a Ouija board. Tom's hands will wrinkle up before you see me gone. I never lack swag, this is that bag. And nowadays I'm greater than the ones I'm half past. Lash dragon attack, back on the track bragging. If it wasn't for the substance, I'd be backpacking. If you seen the pattern, I don't need Aladdin. And I'ma leave the Vatican with a Mina ad-lib. of this Trump crap, and I'ma start swinging like a hunchback. Ring bells with the ink well, think 12. I ain't got no other choice but to paint well. The range fella, my fam nice, cane sellers. We tell them head out when you see a dead mouse. You know what's up, back on the cut with cut side. If it doesn't suit us, cut ties. Out now, they kinda slow with this and out. John Doe, anyone that wanna bomb y'all. Bentornati sulle frequenze di Wolf Street. È già lì. Che sia la tua, non la mia. No, la mi mia cuffia. Mi raccomando, perché qua già facciamo un po' di casino. Visto che ho fatto l'appello, dovevo dire che tra poco arriverà anche Fabio, l'altro Fabio. Quindi abbiamo un doppio due Fabio Fabi stasera. Ma io avevo fatto un altro appello settimana scorsa, se vi ricordate. Infatti bene. È arrivato il ragazzo, quello che chiedevi. C'è un ragazzo nuovo, no? Allora, ti ci devo mandare adesso, subito? Vabbè, no, ricordiamo, aveva fatto un appello, cos'è che vi hai detto? Che un maschio che si crede di essere figo, cioè bello, può venire qua, così noi facciamo poi una selezione e decretiamo il Wolf Trip Man. Infatti, ce l'abbiamo, ma io non lo vedo, sai. Non, siamo messi male, però. Proprio, non so, il o è la mia bello vista... È o è la mia vista che non funziona? Ma sai che sia la vista che l'udito stasera, diciamo, siamo così smarriti. Sì, siamo alla ricerca della strada giusta, del suono perfetto. Facciamo io e te il programma. Sì, sì, sì, mi sa che stasera dovete dare il meglio di voi. infatti, stasera ci facciamo una forza di fatto. Sì, prima che dai il colpo di grazia anche a questo. Sì, infatti, teniamo. No, io avrei più paura della tua faccia. No, ma quella ci pensa già la mia consorte, dunque. Va bene, dai, continuiamo con un po' di musica sempre da questa etichetta Block Sonic. Ma da dove arriva questa? Allora, l'abbiamo presentata settimana scorsa, arriva okay. Dall'America. Ah, da New York. No, perché devo girare le pagine del mio taccuino. bello, mi piace questa cosa del taccuino. Hai visto, è una cosa molto, molto... diciamo, old style, sì, no? Mi piace, vero? Da New York. No. Lui New fa York, il tacchino. Io faccio il tacchino. Comunque, sì, chiediamo la tua consorte, visto che qua... È la mia ragazza il piccione, vabbè, ma questo è un discorso un po' lungo. Visto che qua la tua consorte, glielo chiediamo, una mano in più fa male? Non di ste cose. Meglio che metti il pezzo. Non capisco, ma vabbè, diciamo che... Vabbè, andiamo avanti. Non bisogna capire. Andiamo avanti con CM... CM, sì, ancora, CM, che era quello che avevamo ascoltato già la settimana scorsa, ma un altro brano. Okay. Questo qua è Rock Ed Steadily. Direct hits like producers and flicks, inflict pain beyond measure on some treacherous shit. Call it a fever, nowadays I'm sick, like a patient that's infected with some government shit. One rhyme sinks your battleship. Each line I design is designed to tick. Like seconds on the clock, once time is up, I done blew up the spot with the style uncut. Straight raw doses, who the fuck want what? With the rhyme spitting terrorists, overflowed adrenaline, hotter than a kettle get, taking through your settlement, all around your resident. Listen to my editing, you can always better get, better by the second win. Pause, take a second, then it's back to do my thing again. Allow me to reintroduce you to who I am. Mr. Yes, I'm back with the mic in my hand. Yo, you know how we do it, dawg. Crack hit steadily, people want the raw. When we give it to them, better be ready for the impact, thrown into their memory. Now everybody bounce, sing along with the melody. You know how we do it, dawg. Crack hit steadily, people want that raw. When we give it to them, better be ready for the impact, thrown into their memory. Now everybody bounce, sing along with the melody. You ain't seen nothing yet, yo, I promise. Demolish all these so-called rapper posing as MC. You fucker lack respect, refusing to pay homage to the ones that created, molded this craft from the beginning. I salute every last one of them, blessed be I. I seen hip-hop grow and expand and travel the land and withstand all the rumors that claim that she died. She's still alive every time I clutch a mic in my hand. I preserve this, put it together like a chemist of a wordsmith, carefully crafting every sentence. Once you heard it, you're like, damn, that dope, son. That's what I do most times. I'm potent, sometimes I'm just chill with it. I'm just trying to send a message, hoping that most heads will catch it. Picture in your thought, now sketch it. Bring ideas to reality, don't let the next man wreck it. Yeah, you know how we do it, dawg. Crack head steadily, people want the raw. When we give it to them, better be ready for the impact, thrown into their memory. Now everybody bounce, sing along with the melody. You know how we do it, dawg. Crack head steadily, people want that raw. roll. When we get to the better beat, ready for the impact, thrown into their memory. Now everybody bouncing along with the melody. Check out the melody, heavily rhyme pedigree. I got 100 mics in my hand, a fucking centipede. A sight to see when I shit on them softly. BM, host way, of course, and Mike, you can't see him. I rock heads, shake your face and rattle your bones. Battling, throwing javelins just to capture the throne. We handling this rap shit with a tight grip. Iron fist, gave your chest and send him to the abyss. We make hits, I'm a lethal weapon. Host way to this day, showing them there ain't no half-stepping. You witness a criminal minded with minimal rhymes designed to outshine your simple minded. Rewind it and just don't start shit. You get the mosh pit just for fucking with hotness. We rock this. Affiliates hard as a rock, bitch. Fresh out the box, showing the world the true monsters of lockness. Yo, you know how we do it, dog. Rock hit steadily. People want the roar. When we get to them, better be ready for the impact. Grown into their memory. Now everybody bam, sing along with the melody. You know how we do it, dog. Rock hit steadily. People want that roar. When we get to them, better be ready for the impact. Grown into their memory. Now everybody bam, sing along with the melody. You know how we do it, dog. Rock hit steadily. People want the roar. When we get to them, better be ready for the impact. Grown into their memory. Now everybody bam, sing along with the melody. You know how we do it, dog. Rock hit steadily. People want that roar. When we get to them, better be ready for the impact. Grown into their memory. Now everybody bam, sing along with the melody. You know how we do it, dog. Rock hit steadily. People want the roar. When we get to them, better be ready for the impact. Grown into their memory. Now everybody bam, sing along with the melody. You know how we do it, dog. Rock hit steadily. People want that roar. When we get to them, better be ready for the impact. Grown into their memory. Now everybody bouncing along with the melody. Ti piaceva, Tony? Sì, bella, bella. Questa etichetta newyorkese mi piace sempre piace, di più. Sì, dai, non è male, non è male. Io. È molto interessante. Allora, siamo partiti da New York e adesso... E chissà dove andiamo. Questa sera non lo so dove andremo. No, dai, iniziamo a svelare il nostro... Io... Dimmi. No, era una domanda da dopo. E io ho già fame, già dico, adesso. Quindi. No, dico che il nostro ospite successivo si chiamerà Equite Bump, che è un'etichetta dell'Irpinia. Un'etichetta molto, molto tu bella. Tu me ne parli da quest'estate di questa etichetta. Sì, è un'etichetta che mi piace molto. Però vabbè, dai, adesso pian pianino andiamo a svelare altre cose e dovremmo anche metterci in contatto con loro tra poco, penso, tra un pochettino, adesso vediamo. Ma è che loro mangiano tardi, magari. Sì, dai, sai che al sud un po' si mangia 10, oggi alle 10 non rompiamo le balle, ma che abbiamo finito. E... Contatti non li diamo, ragazzi. Vai con i contatti. Dico io? Sì, tu te li ricordi. La valletta dei contatti. Infatti. Se volete scriverci, potete farlo al numero 338-222-8983. Oppure ci possono scrivere sul WhatsApp. Su... Cos'è 338-222-8983. Sono io su WhatsApp o su Facebook. Sì, su Facebook tra l'altro c'è anche la diretta. C'è la diretta sulla nostra Facebook. Pagina Facebook. Però specifico che nella diretta Facebook si sente solo quando noi parliamo. Bravissimo. L'audio lo sentite solo sull'applicazione o sul sito, perché Facebook ci blocca subito. È vero, perché effettivamente ci hanno sempre chiesto tutti, ma perché non si sente la musica? Si può anche togliere. Comunque potete scriverci su Messenger, al Wolf Trips, oppure anche al in Wolf privato. Al Wolf Trips, è un locale. Al Wolf Trips. Oppure sulla pagina privata, comunque noi rispondiamo comunque. Una chat privata. Sì. No, tra l'altro ti volevo dire che stasera direi che più Wolf Freaks è Wolf Freaks. Wolf Freaks? Sì. È a buon intenditore, diciamo. Poche parole. Tra i mille problemi qua, e poi anche se guardi soprattutto la diretta è Wolf Freaks più che Wolf Freaks. Assolutamente sì. Sì, ma... Freak of Nature. Sai che non mi viene in mente cosa vuol dire Freak? No, Freak è quello che è, come si dice, grottesco in maniera assurda essenzialmente. Sì, la cacata. Sì. No, guarda, se fossimo un programma di cinema ne avremmo da parlare per molto tempo di questa cosa. Va bene. Però non lo siamo e quindi niente, non lo facciamo, mettiamola così. Cambiamo quindi ambito e andiamo ad ascoltare un brano sempre della Dust That Walks Kingdom. Non mi ricordo di dove che era l'etichetta. Sembra Londra. No, forse Siberia. Era una, Siberia. O Siberia o, Bulgaria. Adesso vado secondo a vedere. Secondo me è Siberia. Siberia, forse era Siberia. E loro sono i Tab e Anitech, che hanno già ascoltato un brano di un loro lavoro settimana scorsa. Andiamo ad ascoltare invece Work Sound. Suono del lavoro suonando, no? Come potrebbe essere? Scusa, è la mia traduzione. Sì, sì, giusto. Google Translate. Work sounds. Viaggi del lupo. Preparatevi per un'ora di musica underground, solo su Radio Lupo Solitario. Bentornati su Warp Trips e continuiamo il nostro viaggio insieme ai miei colleghi Domenico. Non mi ricordo mai il tuo nome. Daniele. Come no? Daniele. Total Man adesso. Mannaggia. Ma io ti chiamo Manga, ma non sei Manga. Cioè, no, diciamo, dai, lui non è Manga. Danny dai. J, dai, lo chiamo Danny J. No, Danny J, no, dai. No, abbiamo un altro DJ. Allora, abbiamo ascoltato adesso, proprio adesso, Ampress, un brano di Proletar, che era quell'artista che abbiamo ascoltato sempre settimana scorsa, che devo dirti la verità, non mi dispiace. E in questo caso ha campionato un altro brano, sai che era quello che aveva campionato già un brano famoso degli anni 30, e in questo caso ha campionato un brano di Nothing Can Stop Me, che non conosco. Di Jane Chandler, no, non si conosce moltissimo, però... Sempre un pezzo jazz, queste cose qua. Cioè... Sì, loro l'hanno definito swing hop. Swing, sì, lo swing. Beh, okay. Un po' un mischione, dai, mettiamola sì. Così, un mischione di tutti generi. Gli antenati di Bublé, ecco. Sì, sì, bravo, ci sta. No, ma anche di quel genere, l'altra volta stavamo parlando anche con lui, del, sai, quella musica che diciamo che passava un po' di tempo fa, dance, che mischiava... Con dentro delle... Sì, sì. Cos'è sì. Che avevamo trovato? Poi electro swing. Era proprio una canzone in particolare che mischiava proprio le note, le melodie del, diciamo, dei primi anni del 1900, sì, essenzialmente, sì, sì, con sì, invece sì. Un beat un po' più dance. Avevo fatto la ricerca su... Infatti, ma ci siamo dimenticati un'altra volta. Vabbè. Viva l'ignoranza. No, vabbè. No, ma è giusto scoprire e ricercare, perché bisogna essere sempre curiosi. Bisogna essere sempre sul pezzo. Sul pezzo, ma anche prima. Giusto. Allora, giusto che siamo sul pezzo, direi che andiamo avanti con la nostra, con il nostro viaggio musicale. Ci spostiamo su un'etichetta che potrebbe darti qualche soddisfazione, ma forse anche no. Non so bene questo. Io sono difficile. Infatti, questo qua. Allora, l'etichetta si chiama Regga Wise. Quindi sì, dai, ci sta. Potrebbe sì, essere sì, sul reggae, no? Sì, reggaetoni. Molto, diciamo, molto stile, diciamo, inizio reggae, anche sì, qua. L'hai trovato? Roots, sì, l'ho trovata. La canzone è Why Don't You Do It Right di Peggy Lee. Peggy Lee, l'originale. Peggy, l'originale, Peggy, ovviamente, sì, se cercate famosa, il remix trovate... Sì, perché c'è stato un po' questo filone dello swing mixato con la dance. Diciamo che la pubblicità di quella compagnia telefonica con l'artista... Palo Stellar. Sì, bravo. E tra anche un disco vecchio, dunque. Che tra l'altro abbiamo passato l'anno scorso, nella nostra seconda stagione, faccio più figo adesso, anche seconda stagione di Warp Trips abbiamo passato... fatto anche un disco tonica, mezza tonica. Sì, è vero, un remix, lui faceva una... Sapete, adesso quest'anno fa un po' il pigro, però l'anno scorso no, faceva... No, lo farò, dai. Faceva una farò. Bellissima rubrica di musica da ascoltare, diciamo, al calare del sole. Sì, ecco, bello. Sì, non era male, era una bella selezione musicale. Ma la riprenderemo. Quello lì, diciamo, è un tipo di musica che va molto... quando facendo teatro per esercizi di rilassamento muscolare, è un tipo di musica... Rilassamento muscolare. Sì, perché ti tiene vivo, ma comunque ha quella base che ti rilassa. A me basterebbe una foto di una bella ragazza, comunque. Ecco. Andiamo ad ascoltare, quindi, un brano di questa etichetta che si chiama Reggae Wise. Ecco, adesso ti voglio vedere, dai. No, si chiama Digital Monk lui, quindi vediamo sì, come... Sì, no, se ma il titolo, voglio il titolo. E il titolo è Chatti Dub, dai. Facile, okay. Il titolo era facile. Andiamo ad ascoltare e poi vediamo un po' se ti è piaciuta, se non ti è piaciuta. Già l'intro è bellissimo. Dai, bellina, dai. Chatty mortal race cause a disaster. Look where sometime happen after. Innocent my dollar dead true in front of him farmer. But that cannot reach a gangster. True, we see I'm blind, yeah man, we hear and therefore people business gangster left check. And when we find out, say a boy a new scary. Across the friendship, we put we barrier. We say, gangster no mix neither me. Within farmer people, God, when your friend chatty, I was serious, so it got jail out and I'll take to holy Mr. Weather. One thing me, I ask you, how will you talk so much? You must be swallow radio, but some must be people, business win a powder. You cause of the same thing, you would have won, do it too. Chatty, murder, race, cause of disaster, do it. Gangsta say you run K-pop. Rasta Nation, manca Walter Tabrician. Beh, diciamo, anche, diciamo, la, il fattore reggae qua è bello pesante, diciamo. Sì, sì, sì, beh, a me piace questa etichetta. Fa anche un sacco di eventi reggae molto underground. In dai. Realtà, a me il reggae è uno di quei generi musicali che non fa impazzire. Ma con questa miscellanea di base. Ce l'hai abbastanza... la faccia da reggeggiante. In realtà, per nulla, per nulla. Sì, nonostante il capello lungo arricciato non... non la c'è barba. Per nulla. Sì, invece proprio tutto ciò che più di tutto io ciò che lontano. Io sai come ti ci vedo? Sentiamo. Con i baffi quelli arricciati tipo Salvador Dalì. Sì. Vero? Bravo. No, ti ci vedrei molto bene. Sì, ma in realtà devono crescere, sono ancora un po' troppo corti. Intanto ci siamo moltiplicati. Adesso sì, è arrivato anche dopo il nostro Fabio. Dopo la pubblicità Fabio. Ritorneremo Nella formazione normale, sì, sì, sì. Tra l'altro, subito dopo la pubblicità iniziamo a metterci in contatto con i nostri ospiti della serata. Che tu non lo sai, caro Fabio 2. E oggi sei Fabio 2 perché è arrivato già un Fabio. Quindi Fabio devo... è arrivato prima di me, quindi va. Eh sì, ti ha fregato il numero. E andiamo a contattare poi adesso la nostra etichetta e Quiet Bump. Adesso vediamo se ci risponderanno. Ehi, sta mangiando la pizza, non no, sono all'aperitivo l'ha quest'ora. L'ho sgamato. Hai mangiato la pizza. Hai detto che andavi in palestra. No, io gli ho detto, ma scusami, non potevi portarne qua anche una fetta, che ci avevamo fame. No, ora che ho passato il semaforo era finita. Va bene, dai, andiamo ad ascoltare la pubblicità e poi rientriamo subito dopo. Yeah. Tornati dalla pubblicità. Che belle cuffie che hai, canzone. Fabio. Hai visto? Sono nuove. Non le avevo ancora viste. Adesso mi do una mazzata e me le prendo. Giusto. Tra l'altro, Gaspita, a me aveva prestato delle cuffie. Sono rimaste nella mia macchina per anni. E adesso mi spunta con queste cuffie nuove. Infatti, non poteva lasciare queste. No, ma queste ce ne avevo già. Ah, ok. Siamo un talocchi. Allora, Fabio, che mi dici? Tutto a posto? Tutto bene. Tutto bene? Sì, sono arrivato un po' di corsa come al solito, ma tutto bene. Dopo aver mangiato la pizza. Certo, quindi il venerdì era... è pizza e birra. Mi rimane qua la pizza. Abbiamo tutti lo stomaco che sta facendo. Allora, abbiamo ascoltato adesso un brano di Black Era, che è uno degli artisti. Era nero. Sì. Era uno degli artisti della nuova etichetta che volevo presentarvi, che è Quiet Bump. Di cui dovremmo avere in connessione, vediamo se lo recuperiamo, uno dei fondatori, che si chiama Carmine Gamino. Ci senti? Sì, ciao. Oh, ecco, ti sento. Buonasera. Ciao. Buonasera. Ciao. Allora, tu prima di tutto di dove sei? Di dove siete? Visto che siete un gruppo, penso, di... Noi siamo della provincia di Avellino. Ah, ok. Dell'entroterra campano. Perfetto. In realtà chi è di Avellino città, chi vive in provincia, con distanze anche abbastanza importanti, se vogliamo. Ah. Ok. E adesso vabbè, avevamo preparato un po' di domande con la Cri, che si era studiato un po', vediamo se sa bene la lezioncina, dai. No, scherziamo. No, in realtà non mi sono preparata, però io ho qualche curiosità. Sì, giusto. Volevo chiedere, com'è nata questa cosa dell'etichetta, questa passione, diciamo? Beh, Noi ci siamo da un po' di anni, precisamente dal 2005, quindi insomma è passato un bel po' di tempo. All'epoca eravamo ragazzi e molto, come dire, un po' più spregiudicati di ora, no? In realtà Quiet Bump nasce per un'esigenza, tra virgolette, gioco, tra virgolette, nel senso che noi producevamo i nostri materiali con lavori autoprodotti e ci rendevamo conto che in realtà passavamo sempre come dei demo, mai come dei lavori completi, e se non avessimo messo un marchietto di un'etichetta discografica che ci produceva sul disco. Quindi a noi è venuta fuori, per noi è venuto fuori questo marchio in questo modo. È stato successivamente che abbiamo trovato gusto a fare una label, quindi con tutte le responsabilità del caso. C'è qualcuno di noi, Paolo in particolare, che dice sempre un gioco alla Luther Blissett, non so, qualcosa del genere, se vogliamo. Una necessità data dalla voglia di emergere in qualche modo. E comunque ecco. dalla passione che avete per la musica. Chiaramente. Voi siete un gruppo che vi trovate per produrre questa musica? Noi adesso attualmente siamo un gruppo di 5 persone, ognuno con dei propri ruoli all'interno della label, anche se è un po' che siamo fermi, stiamo per tornare con una nuova release a breve, il che significherà che sicuramente riprendiamo un po' il discorso. Siamo un gruppo che lavora attorno alla musica che fondamentalmente ci piace, ci rispecchia più che altro, senza grosse affinità di genere, ma insomma. Praticamente sì. Le vostre, diciamo, i pezzi che ci sono, che producete, sono tutti comunque fatti da voi? Cioè non avete altri... No, abbiamo altri artisti, nel corso degli anni abbiamo fatto, credo, una trentina di release, qualcosa del genere, però... qualcosa che ci va vicino. Bene. E ovviamente ci sono i nostri pezzi, sì, sotto vari pseudonimi e progetti, progetti che esistevano, progetti che esistono ancora, eccetera, eccetera. Ma poi ci siamo allargati, perché come ti dicevo, mangiando viene l'appetito, no? Nel senso che facendo questo tipo di lavoro sulla musica abbiamo insistito e cercato di trovare poi altra musica che rispecchiasse quello che fossero i nostri gusti. Quindi c'è stata una naturale collaborazione con altri artisti nel corso degli anni. E volevo chiedere, la scelta delle canzoni è basata su, cioè dei pezzi è basata su Beh, noi... Avete un genere particolare? Ma sicuramente il dub. Sicuramente il dub è quello che veste un po' tutte le nostre produzioni. Però il dub multiforme, nel senso, sì, c'è quello di tradizione, c'è quello più contemporaneo, passami il termine. Diciamo che seguendo questo filone del dub, è un approccio al dub che noi consideriamo molto quando scegliamo gli artisti, e naturalmente l'etichetta si è spinta su questo filone, diciamo così, musicale. Beh, io direi allora a questo punto andiamo a ascoltarci qualcosa, giustamente, no? Abbiamo parlato molto e poi dopo magari facciamo ancora qualche domanda. Tra l'altro, tu mi hai mandato oggi un brano, scusami, un nuovo EP di Voodoo Tapes, che abbiamo già passato anche settimana scorsa, però a dirti la verità volevo passare un brano un po' più vecchio perché a me piace veramente tanto, infatti ho ascoltato molti i vostri brani, questo qua mi ha veramente stregato, mettiamola così. E il brano è sempre di Voodoo Tapes, però si chiama Voodoo, quindi ci sai dire qualcosa, magari qualche informazione in più? Voi, adesso Ma no, dai, teniamocelo per dopo. Iniziamo ad ascoltarlo, poi dopo ne parliamo un pochettino. Ok, d'accordo. A dopo. People, are you ready? This is food. I got the poison, I got the remedy for you. We talk with the spirits, yes, that's true. Black magic music, this is how we do. You ready? This is voodoo. I got the poison, I got the remedy for you. We talk with the spirits, yes, that's true. Black magic music, this is how we do. Giro lentamente col cucchiaio il calderone. Nero mentre bolle la pozione sul carbone. Magia nera del delay, papà bonga lo stregone. Sono io la soluzione oppure la fine peggiore. Tra bamboline di voodoo, tra eco space e cavi di bambù. Tra bassline, poi funghi blu, la giusta dose se no fa boom. Noi suoniamo per gli spiriti laggiù che fanno paura come quando incontri l'uomo nero e ti fa boom. People, are you ready? This is voodoo. I got the poison, I got the remedy for you. We talk with the spirits, yes, that's true. Black magic music, this is how we do. People, are you ready? This is voodoo. I got the poison, I got the remedy for you. We talk with the spirits, yes, that's true. Black magic music, this is how we do. Cambia aspetto a mezzanotte come l'uomo lupo. Muovo i tuoi passi come nel teatro un cubo. Il nostro possesso è inutile che chiedi aiuto. E con un po' di spaghe ago ti rendiamo muto. Voodoo tape is too late per un tuo rifiuto. Perso nel big break quello scuro e sconosciuto. Ingabbiato come un detenuto. Ma poi finisce la pozione, il rito è compiuto. Prendo vita dalle ceneri, riemerso dal fango. Sotto varie forme e generi, petali e fiori del mare per l'alto rango. Rievo col mambo jumbo. Sono io il diretto discendente del potente Papa Shango. Sogno che vengo a prenderti, come disse Rambo. Mi trovi all'effigio a Parigi per l'ultimo tango. Sono io il peccato, sono ritornato come Sauron con Saruman addomesticato a modi orango. People, are you ready? This is voodoo. I got the poison, I got the remedy for you. We talk with the spirits, yes, that's true. Black magic music, this is how we do. People, are you ready? This is voodoo. I got the poison, I got the remedy for you. We talk with the spirits, yes, that's true. Black magic music, this is how we do. Sono sapi delle misture, fatti apposta per le fatture. Ti ritrovi con scottature, stigmatizzo le tue paure. L'altro mondo più profondo delle fognature. Mi circondo di streghe, nonché di macabre creature. Prendo bene le mie misure, per gli infusi sostanze impure. Occhi chiusi e poche premure, rappresento le forze oscure. A slip e hollow come mele mature. Taglio via teste dal collo, con in mano la scure. People, are you ready? This is voodoo. I got the poison, I got the remedy for you. Bella, bella questa canzone, mi è piaciuta. Mi gusta, mi gusta. Ci sei? Ci sono, ci sono. Adesso ti passerò ai miei colleghi che volevano chiederti due cose anche loro. Colleghi, siamo quattro, quattro scappati di casa. Ciao Carmine, sono Fabio. Allora, volevo, hai detto una cosa interessante prima, nel senso, da ex musicista, comunque chi ha vissuto la musica dal vivo, hai detto che se non hai dietro un'etichetta, anche se fai lavori validi, molte volte non riesci neanche a sbocciare, perché comunque c'è... Io ho conosciuto tanti bravi artisti in vari ambiti che avrebbero voluto fare tanta strada, ma nel mondo, se non avevi, non so, il giro giusto, l'aggancio giusto, l'etichetta, non avevi il modo di agganciarti a ciò che era il giro più grande, nel senso, la più visibilità. Mi correggi? No, non ti posso correggere, probabilmente adesso è ancora peggio, probabilmente, nel senso che sono entrate in gioco anche altre dinamiche che sono completamente distanti dall'aspetto musicale, tipo, non so, i follower, tipo il profilo dell'artista sui social, tutte cose che sono, a mio avviso, a nostro avviso, in secondo piano rispetto alla musica. Bravo. Sì, è sempre stato un po' un problema, diciamo, riuscire a emergere da un marasma musicale che è eccessivamente, a volte è eccessivo, scusami, non voglio dire che ce n'è troppo, però sai, c'è tanta roba in giro e a volte tu ti perdi nelle scelte, per cui l'etichetta diventa, sì, nel nostro caso è stato un atto di furbizia inizialmente, ma poi diventa pure un modo per marchiare quelle che sono le tue idee musicali. Per esempio, io non so, se faccio mente locale su tutto il catalogo che abbiamo online, ok, per quanto sono diverse le release, si sente sempre che fa parte del nostro catalogo, non so come spiegarti. Mettete un pochino del vostro, diciamo. Sì, c'è una, la roba che esce per la Quiet Bump, come per altre etichette, porta con sé un marchietto che la gente identifica e per cui magari ti segue o anche no, insomma, ma comunque riesci ad avere un grado di attenzione maggiore, indubbiamente. Interessante. Sì, ma perché i più grandi pezzi musicali sono sempre stati scritti nelle cantine, come dico io, cioè un artista è un artista perché crea, non è un artista perché ha 50.000 follower, cioè io sono di questa idea. Beh, sì, questa sarebbe l'idea normale, ma diciamo, io sono di vecchio stile, normale, per cui. Diciamo che comunque la società ha portato anche ai social, sì, quindi ai follower. Sì, l'evoluzione social network ormai è la pubblicità e internet e social. Sì. Infatti, in realtà, ciao Carmine, sono Daniele, volevo agganciarmi a questo argomento con una domanda anch'io. Visto che appunto ormai la musica è vero che si fa negli studi, ma si fa anche online, Il fatto che un artista debba, tra virgolette, piegarsi, diciamo, al volere del pubblico, comunque a quello che il pubblico richiede, è una sorta di percorso che però per rimanere nella qualità della musica non va fatto, o che in realtà si può, diciamo, adattare un ibrido, nel senso, ok, va bene utilizzare, diciamo, produrre musica, se vogliamo, underground o comunque non mainstream, ma comunque cercare di farsi vedere in un modo anche, se vogliamo, attuale? Non so, cioè nel senso, perdonami, l'idea è che se la capacità di adattarsi, ok, a come la società si muove, è una cosa da cavalcare oppure no? Meglio stare originali. Ma io credo che quando uno fa musica fa in qualche modo comunicazione, nel senso che inevitabilmente il tuo è un tuo linguaggio che usi quindi per comunicare. Ora, il tuo linguaggio può essere più o meno forbito, più o meno preparato, più o meno sincero, più o meno... Secondo me, quando uno fa musica dovrebbe provare ad avere un linguaggio semplice e sincero. Secondo me, se hai questo tipo di linguaggio, poi arrivi al pubblico, non c'è questo tipo di problema, come dire. Ok, perfetto, perfetto, interessante. Tu avevi un'altra domanda interessante. Sì, no, in realtà volevo anche capire, diciamo, dal 2005 ad oggi, come è cambiato, come sono cambiati i gruppi che sono approcciati a voi? Cioè, se il tipo di musica era sempre la stessa o altra diversità? Se tu pensi che noi siamo una net label, quindi viviamo di internet, pensi che siamo nati nel 2005, quando la DSL stava appena cominciando ad arrivare. Certo. Se pensi che è stato, siamo nati in un periodo in cui c'erano i peer-to-peer, c'erano tutta una serie di dinamiche di rete e usi diversi della rete rispetto ad oggi, cioè ormai 13 anni fa e sono più ere, diciamo, fa, più generazioni fa, più proprio epoche fa, quindi è cambiato notevolmente tanta roba, cioè Anche faccio per dire, l'interesse che c'era prima attorno al movimento net label, net audio, era molto più rivoluzionario rispetto a quello di adesso, dove questa cosa forse è diventata un po' più usuale. Anche perché ora come ora è anche molto più facile arrivare a questi tipi di network. È molto più naturale. Assolutamente, ecco, sì. È molto più naturale. Anzi, paradossalmente, se vuoi, in un mondo in cui diciamo tutta la musica commerciale è propinata in qualsiasi mezzo, che sia appunto YouTube piuttosto che la televisione, la radio, eccetera, eccetera, magari è ancora più interessante, volete andare a scavare all'interno della rete, andando a cercare appunto quella musica che non... Le net label, come ti dicevo anche prima, sicuramente hanno un ruolo importante in questo, perché quando tu segui un'etichetta tu segui anche in qualche modo un'estetica, uh-huh, e quindi ti orienti all'interno di questo pentolone pieno di contenuti più o meno interessanti, insomma. Sì, sicuramente. Perfetto, perfetto. Allora, andiamo ad ascoltarci un altro brano e poi dopo faremo un ultimo intervento anche un po' per salutarci, così almeno puoi dare anche un po' i contatti dell'etichetta, sentire dove possiamo ascoltare un po' il vostro catalogo. Il prossimo brano che avevo scelto è di Wicked Dub Division, che ho scoperto essere praticamente, cioè, nato dalle ceneri dei BR Stylers, giusto? Mi confermi questa cosa? Il progetto Wicked Dub Division, sì, è un... non so, credo che sia stato parallelo proprio come... Ah, parallelo, progetto. Ok, ok. Adesso probabilmente, sì, BR Stylers mi sembra che ci siano più, loro invece mi sembra che suonino ancora. Ho capito, ho capito. Andiamo ad ascoltare il brano One Blood. Vai. Yeah, man. I was trying to pull a message in the music as the things say. The great things in the name of him are his imperial majesty. We no like a bad man, and we no like corruption. No bull that temptation, and no bull all the evil plan. And me I repeat again, me think that the people can live together as one. See the sun is shining, you know, my universal message. The rest I'm gonna tell you, try right. We don't like a bad man, and we don't like corruption. No bull that temptation, and no bull all the evil plan. And me, I repeat again. One blood, and we got to live by anything. My love is pure now for sure. One heart, and we got to live by anything. My love is pure, all I know. One love, and we got to live in unity. Remember that no pedestal. One blood, and we got to live in unity. All I know me now for sure. But you can't joke with a life. You must understand that me are you the old man. All I know. And you can't put down the table. A place one of God. A rust a man's a culture and a bad things. Alright, I give him praise. there's only one word for sure. Rasta man. And a good vibration, I feel alright. You know, I like to tell them the people, the universal message. You know. Ti piace questo genere, Tony? Sì, sì, scusatemi, ho un attimino perso nei meandri dei media. Sì, perché dovete sapere, se vedevate la webcam, era lì che stava pistolando col cellulare perché doveva caricare una foto su Instagram. Cioè, ho cercato il manuale su Google. Sì, e lo cercherò ancora. Intanto salutiamo sempre il nostro ospite che dovrebbe essere in diretta, giusto? Ci sei? Oh, ok, perfetto. No, abbiamo sempre un po' il timore. Nonostante il crollo del telefono. Abbiamo pagata la bolletta, eh? Questo giro ci siamo. Posso fare una domanda piccola? Vai. Come loro riescono a immaginare, diciamo, la Giamaica nei loro territori? Perché a Bellino c'è sempre... È montano. Cosa che hai detto. È montano. Mi piace molto. Cioè, c'è la neve, cioè, uno dice Lipigna, però Lipigna c'è la neve alta come quota. Beh, c'è anche la neve, sì. Dunque, ci sono alcune zone con la neve. Beh, però si mangia bene. Ma ci sono le vigne da noi, più che la neve. Va bene, dai, volevo lasciarti un ultimo spazio per lasciare un po' i tuoi contatti. Volevo chiedere, ma Instagram non ce l'avete? Meno male. No, no, ce l'hanno. Noi, come ti dicevo, siamo un po' pigri, nel senso che pensiamo solo alla musica. Giusto. Mi sembra una buona cosa anche perché è molto bella. Quindi... Bello controcorrente. Qualcuno poi mi dice come funziona Instagram. Scusa, ma io con la tecnologia. Vabbè, quindi dove possiamo ascoltare un po' la vostra musica? Sicuramente sul sito nostro, aquietbump.com. Sì. Ci sono alcune release su Bandcamp, quindi è aquietbump.bandcamp.com. Okay. Sì. E poi ci sono varie cose online che riesce a risalire dal nostro sito, dalla pagina Facebook. Diciamo che dal vostro sito comunque principale si riesce comunque a recuperare un po' il tutto. Pagina Facebook, sempre Quiet Bump. Sempre Quiet Bump. Perfetto. Va bene. E YouTube ce l'avete? Su YouTube escono le release, sì, c'è il canale YouTube ovviamente, sì, c'è Perfetto. Anche il canale YouTube. Va bene, dai, allora niente, noi ti ringraziamo per il tempo che ci hai dedicato e sicuramente risentiremo altri brani della vostra etichetta. Grazie. E chiudiamo un po' l'intervista, voi siete a posto, no? E con l'ultimo brano sempre di Quiet Bump, l'ultimo che mi hai mandato è quello di Voodoo Tapes, penso che sia Goodbye. Un po' striminzito come goodbye, titolo. Goodbye. Va bene. Non Gigabyte. che mi sembrava il giusto titolo per salutarci. Va bene, dai. Ci sentiamo presto. Ciao. Thank you. Fabio, ti è piaciuto questo pezzo? Bellissimo! No, dai, questa qua è la Mist Record. Mist. Come record. La nebbia. Sì, bravo, infatti, bravo. È quella che vedevo in questo momento. No, vabbè, diciamo che hai fatto una puntata un po' più dub, perché comunque ci stava. Adesso vedi adesso anche arriva la... arriva la parte down. Infatti, adesso vedi anche la base più allegra. Oh! Cioè, sì, quindi cioè, ma, ci riprendiamo. Il sangue che fluidifica nelle vene proprio. Ma poi parla la parte fumatori, no? Del programma. Che neanche sta dentro a sentire la musica. Sì, però... infatti. E tu sei pure in mezzo, hai capito? Io la percepisco. La percetto è bella. Esce come fuori dal microfono. Vi precetto tutti quanti. Okay. Meno male che Daniele ha la buona. Lo percetto, sarebbe da tatuarselo sull'avambraccio. Però potrebbero mettermi in Parlamento con questa. Però devo darti una brutta notizia, dai. Fabio. Che intanto che adesso, vabbè, voi intanto vi siete sistemati, mi puoi anche dire un po' se ti sei acclimatato, se la tua settimana è stata devastante, quindi adesso hai bisogno di, come dire, ricaricarti, riprenderti con magari della musica giusta, giusto? Che spettacolo, io ero in ferie. Aspetta, ci vuole un secondo di bianco. Ok. Pensavo che mettevi qualche sigaro. Direi più di un secondo biancato. Va bene, dopo questa bellissima battuta. Questo ho capito in ritardo. No, ti dicevo che mi spiace, però il prossimo pezzo in realtà è hip hop electronic experimental. Vabbè, vado a fumare ancora, c'ho capito. No, andiamo ad ascoltare il brano di un'etichetta che si chiama Soul Action. Cioè in italiano vuol dire? No, no, non c'ha una traduzione. Fallo il posto è una super cazzola, mettiamola così. E il tizio che ha fatto questo brano è di francese. Proprio di cognome fa francese. il tizio si chiama Harrison Black Oldman. Perché questo io sono stato a Genova in questi giorni, ma mi sono letto e riletto, cioè, i nomi delle buon persone. Vecchio Enrico, uomo vecchio nero. Vabbè che è francese, Ricchio. Enricchio. Cioè, vabbè, però. È un po' tipo, no, sì, mi sembra spagnolo, El Ricchio. Vabbè, siamo io il brano, Domenico. Infatti. Le chapas. Ecco, il brano si chiama Retrospective, quindi è una cosa proprio, sai, Soul Action Retrospective. Però andiamo a ascoltarlo, magari un po' allegro. Chi lo potrà mai dire? Vediamo. Ma dall'inizio. Yeah. No, dai, non è bruttissimo questo pezzo. Bello, dai. Bello, mi piace molto. Sì. No, no, no, dai, non è vero. Questo è hip hop experimental, quindi è un hip hop sperimentale. Vedi che non c'è neanche la parte del papa. Diciamo che su 2 minuti e 40 di canzone, 38 secondi era un suono. Mi sono addormentato. Mi ha conciliato il sonno, come dico. Va bene, io. Va bene. No, diciamo accetto. Che io l'ascolterei prima di andare a letto a dormire. Vabbè, ah, perfetto, proprio. Guarda. Tutta stima per te. Mamma mia, mamma mia. Vabbè. Per stimolare il sonno. Comunque, diciamo, quest'anno Wolf Trips fa un po' la scommessa, no? Va a cercare un po' di generi diversi, quindi può essere che c'è il genere diciamo bello. Diciamo che il lupo è andato brutto. Già in letargo così. No, ma io non dico che è brutta, perché è bella anche la canzone, però io l'ascolterei. Sì, cioè, mi immagino di ascoltarla sì. prima di andare a dormire. Va bene, quindi aumentiamo un po' il beat per allora. Per me sei ripresa. Sì, sicuramente. Per maloso. L'ho preso e l'ho messa da parte. In realtà il taccuino che ho qua è come quello di Camera Caffè, avete presente, no? Ti ho contagiato, uno eh? Uno faceva una vaccata, ah, lo sì, scriveva detto, sul... Infatti c'è scritto Fabio... 2, Fabio 2. Fabio 2 X. X2 affondato. Allora, dicevo, cambiamo un po' il genere, aumentiamo un po' il beats. Yes. Andiamo in Spagna. Oh, l'etichetta si chiama Monophonicons. Cioè, Monophonicons. L'hai messo già l'altra volta, no? Sì, l'etichetta sì. Il brano è di DCM, giusto, fammi vedere se. Sì, Mphysis. Ma che stile è? Deep House. Oh. Andiamo un po' sulla Deep House. Quindi, tra l'altro, cambiamo un po' il genere. È vero che sforiamo un po' dai canoni... magari radiofonici, però a noi piace questa anche di musica, quindi sperimentiamo. E lui è un DJ che ha fatto molti album anche in collaborazione con artisti abbastanza famosi come Alexander. Cioè non Alexander, Alex spazio Under. Lo conosco. È un artista di, che io lo bevevo musica. L'Alexander, ma un'altra cosa. E infatti immaginavo che tu avessi capito quello. Però intanto sì, ti ringrazio anche a te molto. Sì. Quindi andiamo ad ascoltarlo e poi dopo vediamo se vi riesco a risvegliare un pochettino o vi viene di nuovo sonno. Vediamo un po', va. mula rock farfallina, ascolta Radio Lupo la mattina. Tutta la mattina ascoltare Radio Lupo. Era una cosa che voleva Fabio, dai, glielo. È il contentino della serata. Sì, infatti. Il pisellino aveva bisogno della rock farfallina. È un ritorno al passato. Sì. E va tu bene. Cosa ti senti? Rock pisellino o rock farfallino? Io sono rock pisellino. Gran testa di rock pisellino. Eccolo qua. Ecco. Va bene, va bene. Quindi neanche questa qua vi ha, ha svegliato i vostri animi. Devo trovare ancora qualcosa di più. Sto ancora cercando la rock farfallina. Adesso vado fuori. Ma in realtà stavano dicendo che effettivamente è un brano che si presta più a un club. Cioè nel senso, quindi bravo. Se si ricrea attorno al brano l'ambientazione giusta, potrebbe andare bene. Se portate qualche maschio, diciamo che secondo me non è proprio il maschio la figura centrale di un club. Importante del club. Bravo ragazzo. No, magari, insieme. Magari le luci. Magari... Vabbè, scusami, a me non interessano le donne. No, ma lanciamo un concorso. Vai via perché non si copiano le idee degli altri. Vai, sciola. Puzza. Ma no, ma io l'ho modificato in meglio, però. No, via. Allora, no, adesso ve lo diciamo. Quest'anno la Cristina voleva fare un concorso come com'è che era? Wolf Trip Man. E io lancerò Wolf Trip Girl. No, quindi... via. No, sì, è a par condicio, adesso... per la parità di sesso. Siamo in tre, sentiamo questo ragazzo cosa ci dice. Anche un Wolf Trip Gay, cioè ci siamo. E anche lesbo. Così facciamo tutto insieme e via dicendo. Va bene. Votate. No, io non ci sto. Io no Fabio, sto. L'altra volta voi avete avuto il vostro contentino, io no. Dome pezzo, pezzo, pezzo, dome pezzo. No, io sono sempre pronto con la musica, non vi preoccupate. Stavo aspettando il momento buono che finivate di dire le vostre... Taglia. No, vabbè. E dove vabbè... andiamo adesso? No, non andiamo da nessuna parte. Ascoltiamo un brano che loro si definiscono Indie Tronic. Io non li conosco. Non li conosci? Indie Tony? No, Indie Tronic sì, è un bel genere, mi piace. È un brano del 2015 e loro sono Electronic, probabilmente per quello che si chiamano Indie Tronic. No, ma Indie Tronic è famoso. E Gabriel Vittel, che non è che se c'hai fame adesso pensi a Gabriel Vittel. Mi dice anche Vittel Tonnet. Ecco. E il brano si chiama Old Tortures, che vabbè, no, però in realtà non ci azzecca molto con la questione del titolo. Cioè non è che hai ammazzato il vitello, no? Andiamo ad ascoltarlo. Wow, you felt in love so better and you went to a man who hurts herself. Don't take him away. Thank you. questa era l'etichetta Brook, che era come l'altra sempre volta, il solito discorso, Brook, no? Beautiful, sempre quello il discorso. Però dai, il pezzo non era male. Da te non me l'aspettavo la cosa. No, perché allora mi sono riascoltato il podcast che potete ascoltare quindi su Facebook. Quindi guardi Beautiful. No, aspetta, ti spiego. Mi sono riascoltato il podcast di settimana scorsa, che potete trovare un po' in giro ovunque, Facebook, iTunes, Mixcloud, bla bla bla. E c'era sta battuta qua di Brooke, quindi me la sono ricordata. Non so se te la ricordi. Cioè, aspetta se me la ricordo. Però era c'era Fabio che voleva dire programma. Una cosa. Vai, chi non ha mai visto una puntata di Beautiful? È impossibile non che... averla vista, dai. Io ho mai visto una per intero, cioè un passante sì, ma intera sì. No. Ma la fanno ancora? Di che anno sei, scusa tu? Io sono dell'88. Quindi è un anno in più di Beautiful, perché Beautiful è uscito nell'89, se non sbaglio. Sbagliato. Sicuro? Perché io... Allora sarà stato il 91. Ok, guardate su internet. 1990. Ero in, ero in vacanze in Liguria e guardavo. Scusa, aspetta, 89 91, non è che ho sbagliato più aspetta di tanto. Aspetta Fabio che c'è il momento dovrebbe storia. Sentiamo. Tony racconta. Mi ricordo che lo facevano su canale 5, mi sembra, o Rai 2, non mi ricordo, al pomeriggio in agosto. Ma come su canale 5? Quando? No, ma prima quando? Sempre su canale 5 non me lo ricordo. In agosto. No, io ma quando? 1990. Ma quando te l'abbiamo chiesto? Sì, risposta vabbè, ma sbagliata. Wikipedia. Ecco. Dica. In Italia quando è che è stato trasmesso? 87. Ah, ai. Qua dovrebbe partire una nuova rubrica che è Quizzettoni. Quizzettoni? È l'imigo. Toni. Io mi ricordo. È qui da leggere, eh? Sì, ma io nell'87 Toni. Non credo. Però vabbè. Io andrei a cambiare Wikipedia adesso. Infatti, scrivi a Wikipedia. No, magari era già uscito, io non lo sapevo, eh. Io... Bisogna su canale 5 quando non si sta vedi che però Rai 2 avevo ragione che apriva su Rai 2 capito? Quello me lo ricordo si sta repizzando e continua a dire io. Ma la domanda è c'è ancora? Ma chi? Sì, Beautiful? Sì. Guarda prima TV in italiano 4 giugno 1990 ma sì, ma originale e qui c'è che c'aveva ragione cazzo 4 giugno 1990 giugno non agosto sì ho capito vabbè ho sbagliato sì ma voi mi avete parlato di 3 anni prima cavolo certo la prima ma io dico in Italia com'era quel programma vabbè. Di Mike Buongiorno negli anni 50-60 no c'era sai quel programma lì quello Cervellini no c'era quelli dei bambini quelli prodigio che sapevano tutte le risposte sì è vero beh il mio cervello è rimasto a quelli è rimasto così Vabbè allora facciamo un salto adesso sai Wolf Trips ha sempre un po' un salto in giro dimmi prima una, che una domanda Tony ahia ho paura come fai a saperle queste cose le ha vissute te l'ho detto che l'ho viste. Hai visto Beautiful? Ho visto le prime puntate di Beautiful. Cioè, il pomeriggio mi scende di spiaggia. No, beh, era il primo pomeriggio, dunque... È grave. Vabbè. Ma io mi divertivo più la sera. È grave. Aia. Adesso stanno partendo scarpe verso Tony. E dicevo... Aspetta che mi sposto, Dicevo, adesso, visto che Wolf Trips ha sempre un po' di giri in giro per il mondo, andiamo a Dresden. Come l'hai detto? Dresda. In Germania. Etichetta Phonocake. Andiamo ad ascoltarlo e vediamo un po'. Sembra che una brioche. Cosa... Sembra una brioche. Phonocake. We'll be right back. Trips, i viaggi del lupo. Preparatevi per un'ora di musica underground, solo su Radio Lupo Solitario. Wolf Trips, un viaggio alla ricerca della musica del futuro. Questo? Sì, sì, sì, infatti stavo già... Aspetta che, perché qua c'è una disparità di altezze, quindi ci devo stiamo avvicinando livellare. Verso l'orario da club, diciamo. Sì, sì, sì, beh, quest'anno ho deciso di fare un po' questo andamento, si parte dal dub, poi magari si scende un po' più nella musica club. E questo brano qua è di un'etichetta che si chiama Digital Diamonds, che è molto bella. E anche questa è Germania, quindi ci siamo spostati da Dresden a Berlino. Quindi questo proprio viene da Berlino, si sente che la capitale, era proprio berlinese. Andiamo questa. A Berlino, Tony. Sì, sì, sì. Sì, magari, guarda, ci vorrei andare molto. Anch'io, è una delle mete in cui che vorrei visitare nel breve. Ma sai, magari io ho paura che poi ti rimarrei deluso, non so perché. Alcuni mi dicono di sì, alcuni mi dicono vai, però non aspettarti chissà che cosa, non so come mai. Io sono andato e mi è piaciuto molto, soprattutto la parte storica, se mi piacciono un po' le cose. A Berlino ha un centro storico e è tutto immenso. No, nel senso, la parte storica, cioè, c'è la parte del muro, ci sono tutti i vari musei, parti molto... anche diciamo spettrali, ecco, mettiamola così. E infatti Berlino è, cioè, è grigia, diciamo, grigio nera, anzi soprattutto nera. Poi c'è la parte ovest, che in realtà è un po' più bella. La parte est invece vedi ancora delle, almeno all'epoca quando ero andato c'erano molte case ancora devastate. Sì, sì, erano rimaste così, poi magari adesso le hanno cambiate. Perché davvero è una cosa talmente viva, talmente vicina, talmente, nonostante sia comunque passato tanto tempo, attuale secondo me, perché da fine della fiera quasi 30 anni, l'anno prossimo sono 30 anni della caduta del muro. Sì, 89, è vero. Eppure sembra l'altro ieri. Ma la cosa pazzesca, faccio una leggera digressione, vai. Che mi ricordo che io quando ero piccolino, andavo alle elementari e ancora guardavo le cartine dove c'era la Jugoslavia, ok? Sì. Quindi sì, mi immagino i ragazzi di oggi che se vedono la cartina europea in questo modo, magari non sapranno mai. Ma stai tranquillo che i ragazzi di oggi non aprono niente. No, cioè, le cartine le guardano. Sì, però. No, le fumano. Le ma cartine è stato quello. No, pensa che io le ho passate un po' tutte, diciamo. Sono nato nel 74, dunque c'era già l'URSS, Jugoslavia, Germania Est, Ovest. Va bene, dai. Va bene, dopo questa digressione, geografica storica, intanto che aspettiamo i Desaparecidos qua dietro, che li vedo delle facce qua dietro che si affacciano. Se una faccia è già tanto, mamma mia, complimento. Mamma mia. Cambiamo etichetta, ci spostiamo in Formia, Italia. Formia, okay. Formia. Lui è Claudio Iacono con il brano che si chiama Garista. E sicuramente cercherò poi di contattarlo per magari una futura intervista, qualcosa del genere. E ci spostiamo sul genere techno, quindi rimaniamo sulla techno un po' come prima. Era techno. E il brano è del 2018, dai, andiamo ad ascoltarlo. We'll be right back. questi sono tutti i pezzi che Fabio poi ci... Fabio 2? Fabio 3 io. Quindi. Lui è Fabio 3. No, quanti sono sti Fabio? È il nome più popolare al mondo. Che maglia hai a casa? Ah, non era Giuseppe? 14. Ammazza, che colpo. 14. Beh, comunque, questi sono vari pezzi che magari il nostro, uno dei tanti Fabio. FF14, gli abbiamo dato. FF14. Comunque, dato che stiamo parlando di uno dei Fabio, salutiamo la Sabrina che ci sta ascoltando. Ciao, non so della, se dall'applicazione o da Facebook. Però da Facebook dobbiamo dire che la musica non si può sentire. Se è dall'applicazione. Più o meno, che stasera veramente dovrebbe sentirsi, abbiamo fatto la prova prima. Oppure c'è anche il sito www.radiolupo.it. E ricordiamo che se vogliono scriverci il numero è 338-222-8983. Ah, lo sai a memoria? Non ho più il foglietto. Neanche il numero di casa. Cercavo, dove è finito? Devo dire che questa comunque tra le canzoni di stasera è quella più particolare. Sì, perché sì, un genere strano. Anche queste sorte, queste stesse vocine che fanno i versetti, tipo... Sì, sì, non sì. Lo so, è quella che sirene. Mi ha... Tipo sirene. Bravo, non so se bravo. In realtà esiste una categoria di qualcosa che non so come dirvi, che si chiama ASMR. Voi non l'avete mai... Se non è su YouPorn non la conosco. C'è potrei... una roba del genere, si chiama BDSM. No, ma secondo me potresti trovarla anche lì, perché ci sono questi pezzi in cui c'è musica generica così e ci sono I sussurri. Quando si sentono. Ma è molto ambient con tutti questi suoni. Sì, infatti, sai io dopo cosa faccio? Mi faccio passare tutta la playlist della canzone, tutte le canzoni. Ma ce l'hai già in casa, scusa. Me le faccio passare così io le uso poi alla sera per... ma secondo me se vai su YouTube e scrivi ASMR... ASMR? Ma anche per dire, registrano i suoni delle cose... Cioè è una roba da fuori di te. Sì, un po' tipo i ragazzi che abbiamo avuto qui... Sì, anche loro, i murmurmori. Beh, comunque è il genere che a me viene praticamente quando c'è un po' di polvere. ASMR. Io mi metterei del bianco adesso. E tra l'altro sì, del vino, però frizzantino. Siamo andati. Io non ho parole, sì, cioè magari. Basta. È bello perché dico, facciamo un programma serio. Sì, sono il primo. Basta non invitare me. No, ma ti rendi conto con che gente io dormirò stasera? Sì, da quanti che anni? Gente plurale, tra l'altro. Quanti anni avrai ancora? Spero. È quello che mi spaventa. E qui attacchiamo col prossimo pezzo. Attacchiamo col prossimo pezzo e praticamente è uno degli ultimi che avevo programmato per stasera, però visto che siamo stati celeri... come fatta? Scusate. No. Ho sempre una soluzione nel cappello, cioè giro pagina. Nel cappello? Sì, come il mago, no? Non ha un... Il coniglio del cilindro, queste con... metafore... È il gobbo che gira là davanti, legge lui, non hai capito? Va bene, io faccio la gobba. Comunque. Sì. Allora, visto che abbiamo parlato di ASMR, di BDSM, la prossima etichetta è la MNREC. Poi, cioè, no, dove cazzo ragazzi, non le vai a prendere queste cose? Nell'italiano è così bello avere le vocali. Riusciamo a fare una parola con una vocale. Ma è così bello invece non avere vocali e fare tutte parole con tutte consonanti. Io. E il prossimo brano che ascoltiamo è di Welcome Black Plunge. Voglio dire un po' come leggi il resto, perché c'è un titolo allora, che è lungo 6 metri. Forest of Mathematically Generated Ferns. Il più classico, cioè chi non si sveglia al mattino e faccio un gruppo e lo chiamo Forest of Mathematically Generated. Sarebbe? Foresta di Ferns, non so, generate matematicamente, quindi dovremmo Ferns googlare. È Ferno qua a fianco. Andiamo adesso, lo andremo a googlare, così dopo la canzone andiamo a scoprire, sì, esattamente. Tra l'altro è stato estratto dal Net Label Day, che si tiene ogni anno. È un giorno dove si festeggia un po' la fondazione delle etichette, delle Net Label, e vengono estratti dei brani, diciamo, più interessanti dell'anno. Questo è del 2018. oggi è successa una roba un po' strana, nel senso solitamente ci carichiamo verso la fine, invece oggi siamo andati un po' in fase... Incalando. Adesso questa musica così attiva. Beh, comunque dobbiamo comunicare agli ascoltatori che ferns sono le felci, quindi è la foresta di felci generate matematicamente. È tipo i frattali, quindi. Vedo tutti assorti nei loro pensieri. Sì. Però cioè, a me il pezzo piace molto, è molto bello, molto. Sì, anche a me. Che Fabio stasera vuole qualcosa di come dire? Di brioso. Oh. Sì, ma cosa mi dici de... Ma sai perché vuole qualcosa di brioso? Perché lui, avendo già mangiato, quindi è in fase digerente, ok? Bravo, non è tenuto sveglio dalla fame. Aiutato da una buona birra ghiacciata. Perfetto. Tenuta nel frigo per ben 3 giorni. Quando l'ho stappata, ha fatto proprio quel rumore. E lì dici che è qualità. Scusa, ma che l'hai fatto? Porca miseria, uguale. Sono partiti un miliardo di germi per tutto il pianeta. Secondo me possono solo dopo pulire. Quanti anni di allenamento? Questi qua sono oppure, tanti, eh. Oppure in questa stanza possono accompagnare solo. No, che mamma mia, quelle frasi. Ma tra l'altro adesso mi aggancio a sta cosa qua. Ci stavo pensando l'altro giorno, ma tipo quello lì e quell'altro... Saluto Antonio. Dove sono finiti? Ce l'hai con noi? Sono spariti. Sì. Dove sono finiti? Saluto Antonio, ormai l'avrà salutato sto Antonio. Adesso cercherà qualcun altro per salutare. Infatti. Per qualche anno si saluta Marco. Ormai penso che sono più gli influencer. Che fanno... Perché è incredibile come queste figure. Quindi sono qua... a letto con la febbre. Ma sai che ancora lo senti in giro? Saluto pazzesco. Antonio. È un po' come il discorso che diceva Carmine prima. Sì. Cioè, con questa persona qua che non hanno nessun tipo di qualità, che non hanno nulla. E invece, grazie a botte di fortuna, riescono. Ma prendono anche una marca di soldi. Ma fortuna, io la Sebastian Contano. Ma per chi lo segue, probabilmente dovrebbe avere qualche problema. Certo, perché guardare uno che saluta Antonio. Per... E però tende a essere di moda, e quindi magari tu, per cavalcare la moda, per farti vedere, vai ad affiancarti a questi fenomeni che in realtà sono proprio fenomeni da baraccone. Bravo, da baraccone. Una volta avevi il comico che ti faceva ridere. Che invece non so, mo c'è Stefano. Vecchio proietti, ti fa una barzelletta, a me fa ridere, sì. Per dire. Hai detto niente. Piuttosto negli anni 90 c'era Drive-In. E ridevi. No, Drive-In degli anni 80. Bravo. 18, anni 80. 18, 18, 18. Cos'è 18? 18. È perché volevo vedere chi è che non si faceva i fatti suoi. 18. Era una battuta di proietti, dai. Ti hai tirato fuori i proietti. Ah sì, quello del tram, 18, 18, 18. 18, 18. Voglio 18, per vedere chi è che non si fa i fatti suoi. 19, poi faccio 19, 19. 19, 19. Cose del genere, sì, è vero. Adesso non so quindi chi è l'icona trash del mese, non so neanche chi sia. Del mese? Non so, ormai penso ce ne sia uno ogni mese. Sì, che è vero, salta è vero, fuori, è vero, no? È vero, insomma sì. Ma avevo trovato un tempo fa un calendario che ogni mese ti tirava fuori qual era, diciamo, il meme, la cosa più... Ma cos'è? Interattivo questo calendario? Cioè, tipo... No, itinerante. In base al movimenti ascolti, in rete. Tipo, all'inizio dell'anno c'era Salt Bay. Vi ricordate il cuoco turco, quello che salava le cose? Sì. Facendo ad esempio, quello era uno del... Questa me la sono persa. No, te la sei persa? È questo tizio qua, turco, che utilizza una tecnica speciale per salare la carne. Lui c'ha tipo una griglieria. La fa scorrere sull'avambraccio dal gomito e le sa... Ma è una cavolata, però ha fatto il boom, gente che è andata là anche a mangiare, cioè giusto qua che va a fare sti... Questa era un'anteprima del suo programma Nerd Corner. Sì, sì, tratteremo di queste cose. Poi siamo anche andati, ma si è preso il nostro posto. Ah, vabbè, era un'anteprima, dai. Va bene, dai, ascoltiamo un altro po' di musica ripescata dalla settimana scorsa. Questo è Randy Hobbs con Vag. We'll be right back. immagino che abbiate sete. Avete fatto solo 5 euro, quindi non posso bere. Io non voglio parlare della notizia che c'è già anche rotta. Ormai parliamo. Ormai abbiamo lanciato acqua in bocca. Ormai ho fatto la cavolata. Questo c'è i soldi, acqua in bocca, vedi un po' te. No, stavamo parlando dell'acqua, della famosa acqua della Chiara Ferragni, che ho visto che si può trovare in Rinascente. No, non si trova più. Non si trova più. Rinascente va ruba. E l'hanno già rubata, mi sa. Quindi non si trova più, giustamente, sì. È andata a ruba. Sì, ma 8 euro. Ma cioè. Sì, chi ma in realtà non è stupido chi fa questa cosa, ma è stupido chi la compra, se vuoi, nel senso perché... Chi dà retta. Sì, perché se fanno questo tipo di iniziative, perché qualcuno andrà a comprarla per davvero. Ma lo stesso discorso di ciao a Sant'Antonio. Se lui è famoso perché qualcuno lo sta guardando. I ricchi, quelli che proprio ricchi, che non sanno neanche cosa vuol dire la ricchezza, secondo me, tipo i russi, i cinesi. Per loro sì, ma che differenza fa? Appunto, cioè, non c'è differenza. Ma paradossalmente, se tu ti prendi un'acqua di quella, ti fa una storia di Instagram, cioè il ragazzo moderno si sente qualcuno, capisce? Quello lì è il problema, il dramma. Se sì. Vuoi. Cioè, però, non. Cioè, che senso ha? Che senso ha? È un po' come ballare reggaeton, non ha senso. Beh, diciamo che come brand, diciamo, Evian ovviamente ha avuto una pubblicità clamorosa con questa roba. Sì, ma non perché... è la prima cosa che fa. Cioè, assolutamente, no, ho certo, letto certo. Anche Jean Paul Gaultier costava 14 euro la bottiglia. Però Jean Paul Gaultier... Non so se... No, forse... Ma no. Che litro? No, sarà una mezzo, non 75. Ma neanche mezzo, il tappo ti davano. Vabbè... Intanto stavo guardando, non so se l'ha caricata, comunque una delle Biancardis ha caricato un'immagine su Instagram, una stories, visto che state parlando di stories, che è bellissima, dove c'è Fabio e la Cri che parlano e fa morire dal ridere. Ma io non c'ero, no. Andrò a vedere dopo. Okay. Andate a vederla perché è molto esilarante. Esilarante. Va bene, dai. Io sto andando a vedere che... Aspetta, allora aspettiamo solo per i commenti in diretta, la reaction, secondo fai le reaction, ormai sì, reaction ormai sì, è giusto che stiamo parlando. Vediamo dopo la canzone, dai, che magari sarà lunga la storia. No, non lo so, vediamo. Sì. Ecco. Ok, visto, questa è la reaction, quindi secondo me conviene che andate a vederla un po' tutti quanti, sull'Instagram di Wolf Trips. No, sentiamo, non so se avete visto i programmi di calcio su tipo le TV locali, sì. Che si incazzano per la partita. Ecco, io sono il classico tipo sinterista, è fuori gioco! La Juventus. Sinterista! Vabbè, mi brucia, no. Quanti... No. Io taglia, qua taglia, devo fare bravo il paciere. E lancio il prossimo brano che piace molto a Tony, che è no, Secreta. Aspetta. Dimmi. Io ho trovato già un regalo per Natale per Fabio. Ne parliamo nella la prossima puntata. Per il bruciore di culo. Ultimo pezzo! Andiamo ad ascoltare Secret Archive of the Vatican con Green Destiny. We'll be right back. Viaggi del lupo. Siamo giunti già al termine. Sì, devo anche iniziare a cambiarlo un po' la sigla, perché sinceramente mi sono stufato un po', A me è sempre piaciuta. Ah, beh, allora la teniamo, dai. Mi piace. Carino, dai. Sì, parola infatti... di Fabio. Ho anche ballato. Fabio approved. Va bene, dai. FF14 però, No, comunque, prima non eravamo in onda, avevamo andato a fare un bel argomentone che parleremo settimana prossima, delle pubblicità. Del timing delle pubblicità. Bravissima. Settimana prossima tutti in onda, perché dobbiamo parlare delle pubblicità. Mi aspettate, perché io mi preparerò. Ma non è perché il tuo fratello fa le pubblicità, allora. No, non è che è un modello mio fratello. No, capito. Beh, più bello di te sicuramente. Ah beh, se non c'è No. Salutiamo che è anche un amico di Wolf Trips. No, non è vero, gli sta sulle balle. Dici? Vabbè. Va bene, dai, allora niente, salutiamo un po' tutti quanti, vediamo un po' chi è che ci ha ascoltato. Ne ho ascoltato in tanti, perché ho ricevuto un sacco di notifiche bla bla bla vari. Non insulti, spero. No, vabbè, salutiamo comunque l'etichetta White Bump che ci ha, certo, ci ha tenuto un po' di compagnia. Carmine, se... Carmine. E poi vabbè, salutiamo Katia che ci ha seguito dal sito insieme a Sabrina. Che ci ha sentito e non ci ha sentito, diciamo. È un po' come noi stasera, ci siamo sentiti ma non sentiti. Poi volevo salutare anche Ali Yahavala. Che... Oh, non sto scherzando, davvero. Sì, no, ho visto che ho visto. Cioè... Un tizio che si chiama Angeline Relativo. Che boh, vabbè. Non... Magari sei un artista. Che ne so, è relativo. C'è un nome che potrebbe essere tranquillamente il nome di una band che passiamo qui, perché. Sì, infatti. Visti i nomi che hanno scelto. Ma chi? Salutiamo anche tuo papà. Sì. Ma anche Ali Yahavala, dici? No, secondo me è Angelino Relativo. Ah, ok, ok. Per me qualche parola in inglese dobbiamo dirla, perché vedo che molta gente è anche. Cioè, straniera. Do you speak English? Do you speak English? Okay, goodbye. Sì, speak English. Very well. For my friends over Italy. Over Italy. Every world. What's in world? In galaxy. C'è Shakespeare che si sta contorcendo nella tomba in questo momento. Every world. In ogni mondo. Perché noi siamo alle ricerche. Dovresti utilizzare. Guardati. No, intanto dobbiamo lasciare anche, sembra tra l'altro, un politico. La linea adesso per il programma successivo, che non so a che ora arriverà. Non c'è nessuno dopo. No. C'è ancora delle modelle il programma successivo, se no rimango. Va bene, dai, facciamo tutti i saluti. Salutiamo la Cri, salutiamo Tony, ciao. Salutiamo Fabio 2. Ciao. Poi dobbiamo salutare Deborah, che è un po' defilata. Dobbiamo iniziare a farla un po' parlare, sta ragazza, che è sempre lì... Spettatrice. Magari ci sarà sempre, io. Poi ci sarà. Salutiamo Fabio 1, col quale abbiamo concluso un accordo all'interno del programma. No, non ti preoccupare. Ditemi come e quando, che io non vengo. Poi salutiamo Sara, che stasera ci ha tenuto un po' di compagnia. Social manager. Ha fatto un po' soprattutto di foto. Soprattutto social manager per me, perché ancora non ho capito come si accende neanche il telefono. Salutiamo Daniele. Ciao a tutti. Io mi saluto da solo e niente, ci sentiamo settimana prossima. Terza puntata. Ciao. Ciao.